9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Vabbè, grande confusione, come avrete capito. Adesso non iniziate a preoccuparvi, visto che molti ascoltatori insorgono perché dicono che ho trattato l'inno nazionale con un eccesso di disinvoltura. Alcuni si chiedono se mi sto crucianizzando, alcuni dicono che Cruciani è più serio. Naturalmente Barisoni in cima alla serietà per tutti, naturalmente questo è ovvio. E vabbè, poco tempo ancora, mi sopporterete. E oggi, come vedete, al nostro This Is The End, che come vedete... Ripeto, quando poi non ci sarò più, è inutile che vi passerete il tempo a dire che forse ero un po' meno peggio di quanto a molti di voi continui a sembrare, ma come vedete Olanda e Finlandia al taglia spread hanno detto no. In ogni caso, vediamo come si stenderanno le norme in Europa il 9 luglio del meccanismo taglia spread che l'Italia ha chiesto per sé, perché è un problema suo, che precede l'euro, si deve alla menzogna della sua politica. Questo continuerò a dirvi fino a che, ancora per poco, mi sopporterete. E allora oggi, perché abbiamo messo Heidi di Sorridono i Monti, Sorridono i Monti? Perché in realtà mi pare che... Monti abbia poco di che sorridere, quindi bisognerebbe identificare un Heidi a cui sorridesse. Oggi giorno di San Tommaso Apostolo, mai il calendario liturgico ci consente di essere più puntuali, perché dovrebbe essere il giorno in cui si capisce di più che cosa il governo ha in serbo per i tagli alla spesa pubblica. Usando il neologismo, la revisione della spesa, spending review, tutti i giornali, praticamente con pochissime eccezioni, oggi aprono su questo tema. Naturalmente c'è chi calca il piede, come il giornale Monti rischia un altro 4-0. Scrive il quotidiano diretto di Sallusti, e poi c'è quello di Belpietro, un paese di frignoni, i tagli che non si fanno, le ultime lacrimose esibizioni di politici e calciatori segnalano un malcostume nazionale, siamo una repubblica fondata sulle lacrime. Non capisco molto l'attinenza con i tagli. Repubblica, più sobria, un decreto per bloccare le tariffe, piano del governo stoppa luce e gas, acqua e trasporti fino al 2013. Quindi vedete, Repubblica sottolinea tutto ciò che serve, in parole povere, ad avere un vantaggio per chi sta peggio, perché lo stop a luce, gas, acqua e trasporti fino al 2013, appunto, e lo stop alle tariffe. Siamo in diminuzione di entrate attese ed è ovvio che è la parte più socialmente favorevole. La Repubblica preferisce focalizzare la sua attenzione su questo, dopodiché dice stangata sugli statali, ed è ovvio quindi che questo non piace. Però poi a pagina 3 di Repubblica trovate dirigenti, toghe, acquisti pubblici, ecco la scure di Bondi sulla spesa, in settimana arriva il decreto salva IVA. Poi vediamo ancora altri giornali, anche il Messaggero, tagli statali nel mirino, spunta l'ipotesi di blocco delle tariffe, Monti basta tirare a campare, e il Messaggero sottolinea come la minaccia dell'aumento dell'IVA venga utilizzato dal Premier per vincere le resistenze. Io considero questa impostazione un grave errore. Io considero che l'impostazione ereditata dal governo, una delle poche cose buone che questo governo aveva ereditato dal predecessore, era quella che collegava gli aumenti dell'IVA previsti quest'anno, nel 2014, perché non avvenissero, a una riforma complessiva delle cosiddette tax expenditure. Cosa sono le tax expenditure? Sono il minor gettito che deriva dal quasi 300 forme di deduzioni e detrazioni, che diventano poi quelle 300, quelle previste dall'ordinamento centrale, che diventano poi diverse centinaia per effetto delle leggi locali concorrenti, che comportano oltre 270 miliardi di minor gettito, deduzione e detrazione disorganicamente accumulati nel tempo. Era l'intervento organico per disciplinarli, concentrarli secondo vere priorità e abbatterne molti concepiti nel tempo solo per amici degli amici, era secondo me la maniera buona per identificare risorse largamente eccedenti, a mio giudizio, quelle che si ricavavano dall'aumento dell'IVA previsto invece per fare il saldo. Questa connessione tra riforma delle deduzioni e detrazioni e non scatto dell'IVA era, lo ripeto, a mio giudizio, una delle poche cose buone realizzate dal governo precedente, anche perché poi il lavoro tecnico era stato svolto da Vieri Ceriani, che poi è diventato componente di questo governo, della Banca d'Italia, e chiunque abbia studiato il rapporto Vieri Ceriani dei 4 tavoli tecnici che aveva instaurato Tremonti, tecnici di studio sulle questioni fiscali, sa che era un rapporto preoperativo, quindi bastava prendere quel rapporto molto ponderoso e c'erano diverse ipotesi su come riordinare e razionalizzare la deduzione e detrazione fiscale al fine, lo ripeto, di recuperare le risorse per evitare l'aumento dell'IVA. Non capisco perché, non hanno mai spiegato perché, i componenti di questo governo hanno messo da parte quel disegno di razionalizzazione profonda, organica e strutturale delle deduzioni e detrazioni fiscali e hanno invece collegato l'aumento dell'IVA e quindi la maniera per evitarlo, al fine di evitare una nuova ondata recessiva su un paese che già perde più vicino al meno 3 che al meno 2%, lo hanno collegato invece, altro errore a mio giudizio, alla revisione strutturale della spesa, che non è stata la via imboccata fin dall'inizio del governo. Ci arriviamo solo mesi e mesi dopo e ci arriviamo con l'idea che serve ad evitare l'aumento dell'IVA, cioè a recuperare 4-5 miliardi in questi 6 mesi e quindi a recuperare 2/3 di punto di PIL in un anno. E su questo andrà in onda, come vedrete, inevitabilmente un grande casino, perché tutti diranno no alle stangate, no alle stangate, no alle stangate. È ovvio che sminuzzando a 2/3 di PIL su base annuale un intervento di revisione strutturale della spesa, non avremo mai un disegno organico, deciso e strutturale, come sarebbe stato giusto attendersi dall'inizio del governo, se il governo avesse detto che qua ci sono 7-8 punti di PIL sui quali in 3 anni bisogna intervenire. A spizzichi e a bocconi si rischia che a nessuna Heidi sorrida Monti. Allora, questo è un mio giudizio di preoccupazione complessiva e non di pregiudizio nei confronti del governo. Io mi auguro che il governo riesca davvero a venirne a capo. I partiti hanno anche tirato sulla testa oramai. Avete visto che il provvedimento con cui i partiti nel pieno del vortice della sfiducia per casi come quelli di Lusi, che avevano annunciato che si riducevano il finanziamento dei partiti e lo davano ai terremotati, il provvedimento per darlo ai terremotati è sparito dal Parlamento. Come al solito i partiti sono bravi a dire e poi sono ancora più bravi a nascondersi. Misure come quelle per esempio del tetto a diverse migliaia di euro di intervento per le pensioni pubbliche regolarmente spariscono. Vediamo che cosa avverrà di questi promessi tagli, di cui secondo me a stento arriveremo alla fine a capire se e come faranno il saldo. Ma intanto oggi iniziamo a capire che cosa potrebbe attenderci su uno dei comparti nei quali di sicuro bisogna intervenire. Stiamo parlando della sanità. Dall'altra, bisogna farlo con dei criteri per evitare che tutti dicano che si tagliano naturalmente il welfare intoccabile, a patto però di averli individuati con precisione queste misure di intervento. C'è una componente che da sempre mi sentite citare, quella delle forniture sanitarie e della metodologia con cui le forniture sanitarie sono fatte punto per punto di spesa, cosa che non avviene in nessuna azienda, del fatto che si potrebbe ottimizzare molto e risparmiare tantissimo centralizzandone i procurement. Naturalmente, per centralizzare, ipotesi, per passare in Consip invece che ogni singola azienda ospedaliera e sanitaria le acquisizioni, quello che conta per fare le cose ben fatte è che bisogna avere dei modelli microeconomici che tengano conto delle diverse curve di costo e di offerta per tipologia di prodotto, cioè c'è bisogno di un lavoro tecnico vero per fare una cosa che non sia semplicemente un taglio senza senso. Allora, noi iniziamo a parlare di questo di fronte ad alcune ipotesi che sono uscite sui giornali in questi giorni, proprio per l'identificazione di criteri di intervento sulla sanità che a me personalmente non hanno molto convinto. Io ho visto anticipazioni incentrate in buona parte o comunque in parte sui farmaci, e siamo a una delle voci che da sempre pesa di più. Siamo il paese avanzato che si è inventato una percentuale fissa di rientro a carico delle imprese farmaceutiche per la spesa sanitaria annuale. E ieri noi siamo stati incuriositi perché abbiamo visto delle tabelle uscire nelle quali si fissano dei parametri, dei prezzi di riferimento per dispositivi medici, farmaci e servizi ospedalieri, e a carico dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. E a questo proposito ci siamo così incuriositi per capire se si tratta di buoni parametri o di parametri discutibili. E subito, allora, vogliamo parlare con Fabio Pammolli, che è spesso nostro ospite di Limiti di Lucca, come sapete, e spesso ci ha aiutato a capire gli andamenti tendenziali intergenerazionali della sanità italiana. Buongiorno e grazie a Fabio Pammolli. Buongiorno. Allora, ci aiuta a capire se questi criteri di cui si è occupato l'agenzia sono, dal suo punto di vista, validi? Sì, no, e perché sì o perché no, che cosa potrebbero produrre? Sono criteri che hanno una validità puntuale e che quindi rischiano di non avere, a mio avviso, una validità di tipo strutturale. Sono misure che vengono definite per quello che abbiamo visto fino ad oggi, poi vedremo se la versione definitiva introdurrà qualche saldatura, e su questo torno tra un minuto. Però quello che conosciamo oggi è un intervento sui contratti in essere con la pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi, che hanno una riduzione, avrebbero una riduzione del 3,7% a decorrere dal 1 luglio per tutta la durata dei contratti già sottoscritti, quindi una riduzione che si applicherebbe diciamo in modo omogeneo a tutti i contratti sottoscritti. Poi abbiamo l'introduzione, o dovrei dire la reintroduzione, i prezzi di riferimento che vanno a determinare una soglia definita sul valore mediano dei prezzi riscontrati per beni e servizi omogenei, con il punto che poi non so bene che cosa accada a coloro che stanno sopra la mediana, ma anche su questo torniamo. E poi ci sono di nuovo interventi che riguardano il comparto farmaceutico, che è sempre in buona prima linea quando ci sono misure di contenimento della spesa, per una ragione molto semplice, che il costo politico di interventi su questo settore è molto più basso rispetto ad altri. E qui invece si prevede una redistribuzione della spesa dalla territoriale alla ospedaliera, con una revisione dei tetti di spesa. Si conferma l'esistenza di budget aziendali, cioè di veri e propri tetti alla crescita del fatturato per le imprese, e si introducono cosiddetti elementi di payback, cioè sono elementi di restituzione di una quota del fatturato sottoscritto da parte delle imprese in caso di sforamenti rispetto ai tetti di spesa fissati. Allora, il punto è, a mio avviso, il fatto che c'è un'entità, un intero insieme di azioni che spariscono come d'incanto dalla manovra. Quelle che si sono concretizzate dopo anni di discussione sul federalismo fiscale in sanità, sulla legge 42. Abbiamo da questo testo la sparizione per incanto di ogni divario regionale di efficienza, di vincoli di bilancio fissati a livello aggregato, con vincoli macrofinanziari che poi lasciano alle singole regioni la responsabilità e l'autonomia di definire le forme di rientro. Allora, e chiudo questa prima fase dell'intervento, sì, ben vengano forme di razionalizzazione degli acquisti quando abbiamo certezza che stiamo parlando di acquisti di commodities, ben venga un intervento anche in parallelo che dica bene, c'è una crisi, in crisi dobbiamo sì introdurre delle riforme strutturali che cambiano l'assetto del funzionamento della macchina pubblica, ma dobbiamo portare anche a casa risultati di breve periodo. Questo sarebbe stato comprensibile. Quello che non trovo comprensibile è la totale marcia indietro rispetto al disegno di federalismo in sanità. Questo mi preoccupa molto e se avremo occasione poi torniamo su questo punto. No, approfondiamo subito, perché qui la questione, per fare capire a chi è a casa subito, ha detto vabbè, ma che c'entra, ormai la Lega non fa più parte della maggioranza. Qui per federalismo non si intende il riferimento naturalmente a, per così dire, formule politiche, qui si intende il riferimento al fatto che c'era stato un decreto attuativo in cui si introduceva, ne parlammo e noi eravamo tra chi criticavamo, tra chi criticavano perché volevamo di più, c'era un riferimento specifico a dei criteri di convergenza rispetto a chi avrebbe dovuto praticare e praticava, in effetti, come si vede dai risultati di efficienza e di diverso equilibrio finanziario delle diverse sanità regionali, ecco, quello doveva essere uno dei criteri attraverso i quali realizzare progressivamente la convergenza, cioè per un livello di efficienza buono a livelli di costo comparato che fossero più contenuti. Questo è ciò che lamenta, di cui lamenta la sparizione Pammolli, e proprio su questo riprenda invece, cioè, secondo lei di cosa si tratta? Di un nuovo cambio di indirizzo istituzionale oppure di un cambio specifico che si deve all'impostazione politica? Ma guardi, negli ultimi mesi avevo avuto modo di riscontrare con sorpresa prima e con rassegnazione poi la vera e propria sparizione della questione federalista, e credo che sia importante la sottolineatura che lei ha fatto, cioè a dire distinguiamo i piani, un conto sono le disavventure e gli errori gravissimi commessi da forze politiche che del federalismo hanno fatto una bandiera e che stanno riorganizzandosi, e dopo quegli errori altra questione è la questione federalista, che implica una riflessione sull'assetto istituzionale, fiscale, redistributivo e di efficienza nel funzionamento della pubblica amministrazione del nostro paese, che non sarà certo risolta mettendola sotto un tappeto, perché questa è una questione, vedendo le grandezze in gioco, vedendo le difficoltà di alcune regioni del Mezzogiorno da un lato di produrre gettito fiscale e dall'altro lato di efficientare la spesa, ebbene ritengo che ci siano buone ragioni per pensare che questa questione abbia le gambe lunghe e torni fuori dal tappeto sotto il quale è stata sepolta. Allora, faccio un esempio per cercare di comprenderci. Noi potremmo intervenire su tutti gli acquisti di un'azienda ospedaliera. Scopriremo così un elemento che fu scoperto moltissimi anni fa in tutte le economie pianificate, cioè che le righe e le colonne sono tante, cioè a dire che avremo una matrice molto dettagliata di prezzi e di auspicabilmente anche di volumi e magari anche di controllo di qualità, a meno che non vogliamo fare le scarpe tutte nere come in Repubblica Cecoslovacchia nel 1958. Quindi abbiamo un modello che diventa molto parcellizzato, molto frammentato, che non si interroga sulle funzioni di produzione e le funzioni di costo delle strutture che producono, quindi ancora più rozzo dei modelli che erano ben più sofisticati utilizzati in economia pianificata. Ebbene, a quel punto con questa matrice cosa facciamo? Quando ben bene abbiamo costruito una matrice che ha un costo computazionale enorme e abbiamo poi una rappresentazione parcellizzata che non guarda gli aggregati finanziari, non guarda le condizioni di equilibrio di bilancio, né quelle dell'esercizio corrente né quelle programmatiche, non guarda degli indicatori di controllo a livello aggregato, qual è la spesa pro capite controllando per fascia di età, quindi risalendo a un'aggregazione che può anche prevedere, abbiamo fatta noi o l'ha fatta un altro paese, la modifica della Costituzione con la modifica del titolo quinto, dando autonomia alle regioni nell'organizzazione dei servizi. l'ha fatta un altro paese o l'ha fatta l'Italia? Perché se l'ha fatta l'Italia, dovremmo pensare che c'è eterogeneità delle funzioni di produzione e dovremmo anche ricordarci che magari non è intervenendo sulla matrice degli acquisti del prosciutto o dei servizi di lavanderia che riusciremo a determinare un intervento strutturale. Per cui questa è la preoccupazione grossa: come si determinerà una saldatura tra questo livello micro estremamente parcellizzato e il livello delle politiche, del rispetto dei vincoli di bilancio, del fatto che una regione sia impegnata politicamente a sostenere appunto il costo politico e finanziario degli sforamenti. Questi sono aspetti che non mi pare, e quindi è un ritorno per certi versi a una fase che è antecedente addirittura al decreto legislativo 56-2000, che tra l'altro aveva la firma di Piero Giarda e che ci riporta come impianto alle finanziarie pre-2000. Questo allora, è il sapore che avverto. Professor Pamolli, qui come... ci sono due esigenze, mettiamolo così. Adesso ipersemplifico, ma perché dobbiamo capire che chi è a casa chiede esempi concreti, chiede di capire meglio. Allora, ipersemplifico. Da una parte, in questo rapporto che ha fatto l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, in cui ha esaminato appunto molte diverse centinaia di contratti in essere nel campo delle acquisizioni di beni e servizi intermedi per la sanità pubblica, ci sono, cioè, da una parte un'esigenza che è quella che bisogna poi manifestare con chiarezza alla gente, perché è ovvio che se una siringa che potrebbe costare 2 centesimi ne costa da 3 a 65 a seconda delle diverse ASL, oppure una protesi all'anca, come dice questo un altro esempio dei rapporti, può costare da 284 euro a 2575 euro da un'azienda sanitaria all'altra, con quindi dei margini di variazione di multipli fino a 10 volte, a 10 o 12 volte tanto. C'è da una parte l'esigenza di capire con quali criteri microeconomici si può avere una gabbia di riferimento che non sia, come dice lei, iperparcellizzata, perché iperparcellizzare significa perdere di vista l'obiettivo, ma che consenta di intervenire nelle forniture sanitarie che negli anni 2002-2007 abbiamo visto alzarsi di decine di punti percentuali come oneri complessivi. Cioè, il criterio su cui intervenire è chi deve avere il potere di spesa rispetto a tutti i soggetti della sanità, bisogna ricentralizzarlo secondo quali criteri di accountability e trasparenza o di piattaforma telematica, e questo da una parte. Dall'altra c'è la questione della sanità rispetto agli obiettivi macro di rientro e di efficienza macro e di responsabilità politica, dove per responsabilizzazione io ho sempre immaginato dei criteri un po' diversi da quelli di commissariamo la sanità per controllarne i flussi e obbligare ai rientri chi ha fatto eccesso di debito, poi magari attribuiamo le funzioni al commissario, allo stesso presidente della regione che nel frattempo aveva allegramente cooperato a sfondare come suoi predecessori, come è puntualmente avvenuto in questi anni. Ecco, queste due esigenze, quella di riordinare il potere di spesa micro e quella di obiettivi politici macro, come è possibile, professor Pamolli, senza che ci perdiamo i meandri tecnici, metterli insieme in un quadro per il quale non ci troviamo per l'ennesima volta adesso, di qui a qualche mese, ad avere solo qualche taglietto fatto dove è più facile, cioè sui farmaci? Fissando innanzitutto un vincolo macro finanziario per il Fondo Sanitario Nazionale che sia un vincolo veramente esogeno rispetto all'azione degli attori stessi, rispetto a coloro che poi sono chiamati a spendere. Il che significa dire rispetto alla situazione di patologie, demografia del paese, eccetera, eccetera. Il vincolo è questo, non nasce da un tavolo di trattativa con i presidenti di regione. Così. Non nasce dal tavolo, dal patto per la salute, l'ho ripetuto più volte, è un'anomalia tutta italiana nella quale le regioni sostanzialmente hanno una deriva naturale nell'andare a determinare un innalzamento progressivo delle richieste di finanziamento, perché l'unico equilibrio che riescono a realizzare tra di loro è un equilibrio di tipo parzialmente incrementale, positivo. Certamente. Questo è un primo elemento, c'è un'inerzia a livello macro che poi determina chiaro tutti i contenitori sotto. Il secondo elemento è conciliare un'azione di monitoraggio che va poi finalizzata sui capitoli di spesa più importanti per vedere delle anomalie da approfondire, da segnalare, con una responsabilità che a mio avviso non può che essere in capo principalmente alle amministrazioni regionali, che sono chiamate a tenere in modo stretto il vincolo di bilancio fissato a livello macro. Se si pensa che per risolvere un problema atavico della Repubblica, che è quello dei vincoli di bilancio soffici, cioè che vengono enunciati per essere poi violati e ripianati, allora possiamo intervenire unicamente sul livello micro, si compie un'operazione scorretta concettualmente. Il livello micro di controllo dei costi è un controllo, così come lo è quello dei risultati delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini, è un controllo di qualità che deve servire per promuovere azioni, interventi correttivi da parte di coloro che hanno la responsabilità in via primaria. Si può anche dire che in questa fase abbiamo un'esigenza di controllo della spesa che deve portare a casa risultati nell'immediato e centralizziamo pure tutto ciò che è centralizzabile, riducendo quelle asimmetrie di prezzo che sono inaccettabili, non sto dicendo che non siano inaccettabili, sto dicendo però che in un mondo all'interno del quale abbiamo tariffe come quelle dei DRG, le possibilità di elusione di vincoli posti su singole partite sono enormi e noi avremo distorsioni che risponderanno a questi controlli minuti se non le accompagniamo con una forte responsabilizzazione sugli aggregati finanziari. Questo è il punto. Perché a controlli minuti il soggetto deputato a realizzare il risparmio potrebbe rispondere semplicemente trasferendo il costo su altre forme di contabilizzazione delle prestazioni. Allora, sì, il pubblico insorge, adesso si aggiungerà un altro ospite, ma intanto glielo dico subito, perché la gente dice ma che i farmaci bisogna tagliare. Ragazzi, adesso, prima che molti di voi continuino a dirmi, aggiungendo, ne abbiamo aggiunto un altro degli elementi per cui state chiedendo di cacciarmi. Oggi molti di voi dicono che sono pagato dall'industria dei farmaci, se vi dico che il meccanismo che da sempre vindica nel taglio dei farmaci il vero elemento che in questi anni è stato più che determinante nel tentare di non avere troppo deficit aggiuntivo rispetto a quello che comunque si produce nella sanità, è una cosa facile alla politica e demagogica. Naturalmente in voi scatta la cosa: servo dei produttori di farmaci. Vedete quanto lo Stato vi ha reso sudditi nel pensiero e incapace di articolare un minimo di logica per la quale si mette a tavolino, si capisce quali sono le diverse funzioni di costo, qual è quella che interessa di più alla politica, la mano libera nel determinare i contratti di assunzione dei beni e servizi intermedi, diffusa su un territorio, contrattata voi di volta in volta incrementalmente dai presidenti di regione. E voi di fronte a questo invece no. Voi siete convinti che quella è roba sana, mentre invece naturalmente la subdola presenza di questi famigerati attori di questa roba terrificante che si chiama il mercato, cioè i produttori di farmaci, eccoli là, i veri profittatori a danno del popolo, del denaro della sanità, secondo voi. E lo Stato vi ha proprio convinto che è così. Questo è il bello. Attenzione, io non sto dicendo che nel meccanismo del procurement farmaceutico non ci siano molte cose discutibili, ma quella è la voce su cui si picchia sempre, perché alla politica è convenuto convincervi che sia così, ed è quella da cui si porta a casa con meccanismi automatici da anni un contributo fisso al contenimento del deficit. Lo sapevate questo? Non so, secondo me o lo sapete e però allora siete al servizio della casta degli amministratori sanitari, se mi rispondete così in sms, o non lo sapete, allora ascoltate e poi discutiamone. Allora, stiamo parlando di questo inizio di strategia di revisione della spesa, a mio giudizio sbagliato, perché è diluito nel tempo, è sminuzzato in tre interventi. In questo primo intervento, di cui si inizia a parlare da oggi, per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi negli enti statali, forse ci rientra la sanità, per questo stiamo parlando oggi di sanità. Poi dovremmo parlare invece del secondo capitolo, che vedremo in parole povere con i provvedimenti finanziari di fine anno, e lì dovrebbero esserci le misure sul pubblico impiego, le province, le autonomie, gli enti locali. Dopodiché nel primavera 2013 un terzo capitolo, almeno così scandisce oggi il Corriere della Sera, che dovrebbe riguardare poi la riorganizzazione degli uffici territoriali del governo, i tagli alla spesa dei ministeri, perché i ministeri sono pronti a resistere perché dicono che i risparmi li hanno già dato. Io credo che sminuzzando in questa maniera i provvedimenti, si consente a ciascuno separatamente di resistere meglio, e soprattutto al paese non arriva un quadro d'insieme. L'obiettivo di quanti punti di PIL si possano e perché individuare di minor spesa corrente, perché a parità di saldo possano essere retrocessi minor pressione fiscale. Io credo che così procedendo il governo, come col conferimento a CDP di un inizio di beni pubblici, ha voluto levarci di mano la strada di usare l'attivo patrimoniale pubblico per abbattere il debito pubblico, così ci impedirà pure poi alla fine di riprendere le fila di un discorso che dica con chiarezza ai contribuenti italiani che solo attraverso 7-8 punti di spesa corrente in meno in 3 anni si può fare una retrocessione fiscale che è quella che consente poi all'impresa e al lavoro di ripartire. Io temo molto questa strategia, è tutta spezzettata, è tutta sminuzzata, è tutta dispersa, consente l'ottimizzazione della resistenza a tutti coloro che, toccati da questo o quel capitolo, vogliono puntare i piedi. Veniamo adesso alla questione dei farmaci che, come preannunciato dal governo, dovrebbero essere una delle 3 voci dei quali comunque si porta a casa dei risparmi, e molti di voi, ho visto dai sondaggi, sono convinti che più che il procurement, cioè l'acquisto dei beni e servizi intermedi nella sanità, bisogna tirare fuori i miliardi che si fanno dai farmaci. Allora ci ha raggiunto Giorgio Foresti di Assogenerici. E io gli chiedo innanzitutto che cosa avete capito che riguarda il comparto farmaceutico, che indiscrezioni avete, visto che di sicuro è uno dei terreni su cui ancora una volta la politica vuole andarci giù col coltello, e tenti di spiegare a chi è in ascolto e parte ha un pregiudizio fortemente negativo nei confronti dell'industria farmaceutica, come e perché non sia poi così infondato sottolineare che una delle componenti fisse attraverso cui facciamo il rientro, che sulle altre componenti invece della spesa sanitaria non si riesce mai a fare. Prego, prego Foresti, buongiorno e grazie. Buongiorno agli ascoltatori. Ma certamente la percezione di fondo è quella che la spesa farmaceutica va sempre tagliata, e il percepito è che i medicinali costano tanto, le medicine sono care, le industrie guadagnano un sacco di soldi, quindi è giusto tassarli. Ma certamente non è così, nel senso che le industrie guadagnano giustamente, ma reinvestono grandissime quantità di denaro in ricerca e sviluppo per procurare nuove medicine che servono poi alla gente per vivere meglio. Noi riteniamo, come comparto, sia come Assogenerici che come farmaindustria, come tutto il comparto farmaceutico sia utilizzato normalmente come un bancomat. Quando servono soldi si va, si mette la tesserina dentro e si taglia la spesa farmaceutica, mentre oggi il livello di taglio che ha raggiunto questo settore mette a rischio la presenza stessa di medicinali in commercio. Ci sono dei medicinali che non arriveranno in commercio in Italia perché il prezzo che il sistema vuol pagare è troppo basso, ci sono medicinali in commercio in Italia che spariranno dal commercio quanto prima perché i ricavi che le industrie portano a casa non ne garantiscono la presenza nel mercato. Questo è un assurdo, ed è qui che noi obiettiamo, nel senso che noi riteniamo che oggi la spesa farmaceutica abbia raggiunto un livello tale da definirsi come servizio minimo di assistenza, non un servizio massimo di assistenza che il sistema può dare, e quindi riteniamo che oggi sarebbe giusto, definito la quantità di denaro disponibile per i medicinali, rivedere come questi medicinali vengono distribuiti, dove vengono utilizzati, come vengono utilizzati, se sono utilizzati in modo corretto, se i medicinali generici per esempio hanno una diffusione adeguata alla diffusione europea, o se possono diffondersi di più e quindi generare un risparmio, e questo risparmio essere riutilizzato per dare l'accesso alle cure innovative che sennò come paese rischiamo di non avere. Questa è la situazione reale della farmaceutica in Italia. Comunque voi non ne avete sapete nulla fino a questo momento, cioè non... No, noi sappiamo che c'è previsto una ridistribuzione del tetto di spesa tra l'ospedale e il territorio, e all'interno di questa ridistribuzione di spesa dovrebbero saltare uno 0,7% del fondo, e quindi esserci un taglio pari circa a 1 miliardo di euro. Un miliardo di euro su base annuale o semestrale? Quello annuale? Su base annuale. Quindi sarebbero 500 milioni entro. Si è adottato. 500-600 milioni entro la fine dell'anno. E mentre ripartono i Doors, grazie ad Antonio Costantinidis. L'ultima prima che cominciasse la trasmissione stamattina, lettera che un imprenditore ha scritto a disperatimai@radio24.it, perché ne stiamo parlando meno, ma l'iniziativa va avanti. E io chiedo a tutti voi, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti in difficoltà, di continuare a scrivermi. Fatelo anche al mio indirizzo giannino@yahoo.com. Io non mollerò mai la campagna a difesa delle vostre ragioni. Può essere che la faccia altrove, ma non mollerò mai le ragioni di un'Italia profonda, violata e spogliata dall'eccessiva pretesa di uno Stato senza eguali tra tutti gli altri paesi in condizioni di rientro di finanza pubblica obbligata, l'unico che fa insieme aumento su chi già le pagava di imposizione diretta, indiretta e patrimoniale, l'unico che non capisce che così facendo deprime ulteriormente il PIL e rinuncia a gettito. Questa è la cieca, stupida violenza di questa impostazione di politica fiscale. Quindi grazie ad Antonio Costantinidis, è un titolare di una piccola e media impresa nella distribuzione del caffè a Verona, e mi ha scritto dandomi ancora coraggio e fiducia dopo mesi e mesi in cui la lettura di migliaia di vostre lettere mi ha più volte fatto letteralmente piangere di rabbia per come non riusciamo a incidere in questo paese. Ci tenevo solo a dirlo, perché non pensiate che le lettere che arrivano io non le legga e che non tornerò a farci trasmissioni sopra. Ma ora stiamo parlando di questo inizio di tagli in sanità. Sentiamo come la pensa qualcuno di voi. Antonio, che chiama da Treviso, per esempio. Prego, Antonio. Buongiorno, è un piacere sempre parlare con lei, anche se sono, tante volte non sono d'accordo su determinati temi. Beh, certo, ci mancherebbe. Io sono un infermiere che lavoro su un reparto di prima linea. Prima ho lavorato in pronto soccorso e poi adesso lavoro su un reparto di medicina. Sì. E il problema, secondo me, è ristrutturare tutto il discorso sanitario. Prima di tutto del medico di base, che ormai è diventato un burocrate e non fa più il medico. E delega completamente alla struttura ospedaliera e alla gestione dei suoi pazienti. E poi il problema dell'acuto e del cronico. Sì. L'ospedale dovrebbe servire solo per l'acuto, mentre il cronico dovrebbe avere altri tipi di strutture. Non c'è dubbio. Perché non ti puoi permettere... Cioè, sì, permette di fare 4-5 ricoveri annui di un paziente per una malattia cronica, però allora non è più da ospedale, ma da una struttura intermedia, esatto. Famosi, e come veniva chiamata, strutture cui ti permette un costo un biere minore, ma comunque di valutare, di curare queste patologie croniche che prima o dopo 3-4 volte all'anno ti vengono ricoverati. Non c'è dubbio. La panospedalizzazione che fa da presidio territoriale, medicina di base e problema dei cronici, anziani, disabili, eccetera, eccetera, tutto iperospedalizzato significa una modalità inefficiente e costosa. Questa è un'osservazione. Come si vede, chi poi sta in prima linea capisce ed è in grado di dirci che oltre ai diversi criteri di confusione politica ci sono delle macro evidenze su cui bisognerebbe intervenire. Enrico da Firenze, che pensa? Sì, buongiorno. Il ruolo dei servizi di non poco conto a tutti gli effetti e di maggior peso è sicuramente la telefonia. Basti solo pensare, diciamo, al costo, diciamo, dell'installazione, della gestione della rete stessa all'interno di un sistema ospedaliero e a quante persone poi quotidianamente cercano di attingere, di raggiungere questi sistemi, solo che molto spesso vengono installati nuovi sistemi anche con l'intento di accentrare la telefonia stessa, riducendo gli operatori, però senza testarne la funzionalità. E parlo con cognizione di causa, perché so per certo che se molto spesso da Firenze, da dove parlo, non ricevono risposta, molto spesso gli utenti, anzi i pazienti, diciamo meglio, non è già per mancanza di volontà da parte degli operatori, quanto per il fatto che l'assegnazione della chiamata non avviene proprio. Ora, se un'azienda, parlo di un'azienda che non sia ospedaliera, può permettersi, vuol permettersi di perdere i clienti, è liberissima di farlo, ma questo non può fare un sistema ospedaliero nel perdere i pazienti. Non certo, deve assolutamente perdere i pazienti significa, può correre il rischio di significare far perdere la loro vita. Alessandro Di Rieti, prego. Alessandro. Buongiorno dottore. Rapidamente sulla farmaceutica, io volevo dire, la farmaceutica territoriale assorbe il 13,2% del costo totale della sanità, quindi un intervento anche lacrime e sangue sulla farmaceutica, anche se noi abbassiamo il 10%, inciderebbe su un 1,3% del totale della spesa sanitaria. Corretto, vedo che lei è preparato, ma che fa di mestiere? Oh, prego? Che fa di mestiere, se posso chiedere? Farmacista. E siccome faccio il farmacista, le posso dire però che tuttavia un risparmio è possibile, perché io proporrei di pagare il farmacista non più a percentuale sul farmaco. Attenzione, giusto, ma? ma a prestazione professionale, cioè ogni ricetta che tu farmacista mi spedisci, io ti do un X, stabiliamo quanto, non so, 5 euro? Ci sarebbe molto da dire anche su questo meccanismo, secondo me, perché aprirebbe molto, se lo facciamo a percentuale sulle ricette, anche quello non mi fiderei molto. Però lei ha toccato un altro punto essenziale, secondo me. Guardate, ne dovremmo riparlare, perché oggi il tempo è finito, io devo salutare e ringraziare sia Pamolli che Foresti. La sanità è veramente, voglio dire, un grande comparto della spesa e del welfare, e quindi non sarà solo in questa puntata che noi esauriamo l'approfondimento, ma attenzione, questa strategia di tagli può rischiare di non andare, dopo i no che fioccheranno avendo la crisi sminuzzata, da nessuna parte. Preferisco sbagliare, ma il rischio del governo Monti è questo. A domani, intanto grazie a tutti voi.